le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Il movimento di sinistra anti-austerity di Podemos conquista Barcellona e governerà Madrid insieme ai socialisti. Mazzata all'Europa, dice Salvini. Renzi, i venti da Spagna, Grecia e Polonia chiedono il cambiamento. E proprio Atene resta al centro dell'attenzione. Esaurita la liquidità, fa sapere il governo, non possiamo rimborsare il fondo monetario. Si teme un default, un'uscita dall'euro. In una caserma di Tunisi torna la paura del terrorismo, sparatori e due vittime, ma non si trattava di un attacco di jihadisti. Restano aperti i dubbi intanto sul caso dell'uomo arrestato in Italia. La nuova inchiesta della magistratura sull'accoglienza dei migranti scuote una struttura della Caritas. I soldi dei profughi per case, biglietti per lo stadio, frutti di mare. Il derby tra Roma e Lazio si giocherà stasera alle 18 e vale la Champions. Un punto farebbe comodo a tutte e due, lo spettro del biscotto, sia del pareggio concordato. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. I nostri contatti in apertura, effettogiorno@radio24.it per scriverci, la nostra pagina sul sito www.radio24.it oppure durante la diretta, il numero di sms, il 349-238-6666. In apertura parliamo delle elezioni locali in Spagna che hanno visto l'affermazione del partito antisistema Podemos, conquistata tra l'altro la carica di sindaco di Barcellona. Decían hace un año que no se podía desafiar al bipartidismo, que la dignidad no podía estar en las instituciones. Muchas gracias Madrid por demostrar que sí se puede. Un anno fa dicevano che non potevamo sfidare il bipartitismo e che la dignità non poteva aver casa tra le istituzioni. Ora è dimostrato che si può. Sono state queste le parole del leader di Podemos, Pablo Iglesias, commentando il successo del suo partito alle elezioni amministrative in Spagna. Con la conquista di Barcellona e con ogni probabilità di Madrid, Valencia e Saragozza in alleanza con i socialisti e con il crollo dei consensi per i popolari del premier Mariano Rajoy, gli spagnoli hanno impresso al paese una svolta. Dal 2011 i popolari hanno perso 11 punti e 2,6 milioni di elettori, pur restando con il 27% il primo partito del paese. In Spagna dalla notte scorsa non esistono più maggioranze assolute, il panorama politico è ora fortemente frammentato e per il leader di Podemos, Iglesias, la linea del suo partito è molto chiara. Nuestra línea de trabajo es muy clara: tolerancia cero con la corrupción. Quien quiera entenderse con Podemos tiene que saber que con la corrupción nosotros no tragamos. Tolleranza zero dunque verso la corruzione per chi vuole intendersi con Podemos, ha ribadito Iglesias. L'affluenza dei votanti a queste amministrative spagnole, infine, secondo i dati diffusi dal Ministero degli Interni di Madrid, è stata del 49,79% degli aventi diritto contro il 49,19% del 2011. Adriana Fracchia, Radio 24, il Sole 24 Ore. Questo voto scuote l'Europa e sta generando reazioni anche in Italia. Su queste torneremo tra poco e tra poco verremo anche all'analisi di questo voto. Nel frattempo lo sguardo si volge al luogo d'Europa nel quale per primo si è affermato un partito di sinistra per certi versi simile a Podemos, ossia la Grecia, e dove però l'allarme per la carenza di liquidità torna alto. Abbiamo in linea con noi Vittorio Darold del Sole 24 Ore, che ritorna e che ormai ospitiamo quasi quotidianamente. Innanzitutto buongiorno Vittorio. Buongiorno a voi. Che nel frattempo ha anche pubblicato il suo libro sulla Grecia, La Grecia ferita, cronaca di un waterboarding spietato. Il waterboarding, lo ricordiamo agli ascoltatori, è quel metodo di tortura che consiste nel mettere uno straccio sulla faccia di una persona e versargli dell'acqua sopra simulando l'affogamento, quindi titolo molto esplicito. Vittorio, quali sono gli aggiornamenti di oggi? Ma l'aggiornamento è proprio di qualche secondo fa. Il portavoce dell'esecutivo greco, Sakellalidis, ha appena detto che il governo greco rimborserà il prestito del fondo monetario a giugno, ma non in un'unica tranche come era stato pensato in un primo momento. Quindi in qualche modo c'è stata una correzione di rotta su quanto aveva detto ieri il ministro degli interni, Vucic, che invece aveva detto non abbiamo i soldi per pagare la rata di appunto del 5 giugno. Quanto c'è, Vittorio, un gioco delle parti in tutto questo? Beh, sì, è una trattativa sicuramente negoziale, queste sono tecniche negoziali per far salire la tensione, poi però nel momento in cui comincia a salire eccessivamente, quindi si comincia ad avere timori anche di fuga ad esempio dai capitali o comunque fuga agli sportelli bancari, allora ecco che il governo greco torna a premere sul pedale del freno. Questo è un meccanismo che fanno anche a Berlino, dove lo stesso ministro delle finanze tedesco Schäuble aveva detto fate pure il referendum, che appunto oggi l'Europa è molto più attrezzata, per poi dire far smentire questa affermazione da un portavoce del ministro delle finanze tedesco. Insomma, effettivamente siamo alle battute finali. Diciamo che l'accordo è possibile, ci sono ancora delle questioni sul tappeto, sono le riforme che Atene deve poter affrontare, le riforme sul lavoro, le pensioni e sul salario minimo, che però naturalmente avranno delle problematiche con il passaggio nel Parlamento di Atene, dove la sinistra di Siriza, la sinistra radicale di Siriza, ha dei problemi a far passare questo piano complessivo. Ecco per cui tutto è nelle mani di Tsipras, nell'abilità del premier greco di trovare un equilibrio tra le richieste dei creditori e la capacità di non rompere con il fronte interno, che eviterebbe quindi una nuova crisi appunto della maggioranza ad Atene. Ti ringrazio, grazie a Vittorio Darold del Sole 24 Ore. Nel frattempo la mattinata sui mercati è negativa, con Milano che cede quasi il 2%. Su questo e sull'aggiornamento dei mercati torneremo più avanti, come sempre alle 13.30. Si diceva del riflesso delle elezioni spagnole in Italia, dove si attende, come sapete, per domenica il voto alle regionali. Il successo di Podemos fa la sua comparsa anche fra i temi della campagna elettorale delle nostre elezioni regionali. Se l'Europa non riesce a cambiare la sua politica economica, i movimenti contro Bruxelles saranno sempre più forti, avverte stamattina Matteo Renzi, che accomuna il risultato del voto in Spagna a quelli in Grecia e Polonia. È necessario trovare una terza via tra l'austerity e la demagogia del tutti contro l'euro, spiega il Premier, che nel pomeriggio sarà in Liguria, una delle regioni in bilico. Il risultato elettorale della Spagna e anche il voto in Polonia sono una bella mazzata per i difensori dell'Europa delle banche e per i servi di Bruxelles, commenta anche il leader della Lega Nord, Matteo Salvini, che ieri si è detto pronto a sfidare Renzi se alle regionali il Carroccio dovesse imporsi come seconda forza politica alle spalle del PD. Del futuro del centrodestra e della sua nuova leadership ieri sera è tornato a parlare anche Silvio Berlusconi, ospite per la prima volta di Che tempo che fa su Rai 3. Il mio erede non si è ancora fatto vivo, ha detto il leader di Forza Italia, che è tornato poi a bocciare le primarie troppo manipolabili, ha spiegato il Cavaliere. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Andiamo all'estero, meglio torniamo all'estero per parlare di una crisi non economica ma umanitaria e militare. Andiamo in Siria dunque, dove emergono altri dettagli delle violenze di ISIS a Palmira. La strage di donne e bambini nell'antica roccaforte di Palmira, conquistata la scorsa settimana, si aggiunge alle oltre 200 persone uccise nella provincia di Homs dalle milizie jihadiste e ai 600 civili catturati. L'ISIS continua la propria avanzata verso la capitale siriana Damasco, un'avanzata che la coalizione internazionale a guida statunitense prova a fermare. Molti raid aerei nelle ultime ore in Siria, come in Iraq, l'altro fronte caldo. Nella capitale Baghdad l'esercito programma la controffensiva per riprendersi la vicina Ramadi. Il primo ministro iracheno Abadi è convinto che tornerà sotto il controllo dell'Iraq in pochi giorni e respinge le parole del segretario americano alla difesa Carter, secondo il quale nell'esercito di Baghdad manca la volontà di combattere l'ISIS. In questo quadro la coalizione internazionale prepara il vertice di Parigi del 2 giugno. Per il ministro della difesa Roberta Pinotti l'Italia fin dall'inizio non si è tirata indietro e se ci sarà bisogno darà un contributo ancora maggiore. Nazareno Orlando, di Radio 24, Il Sole 24 Ore. C'è un caso del quale si occupa la magistratura e riguarda ancora una volta l'accoglienza dei migranti ed è un caso che coinvolge una struttura della Caritas. C'è da rimanerne esterrefatti, così il presidente dell'anticorruzione Raffaele Cantone sull'indagine della Procura di Napoli che vede coinvolte alcune Onlus e anche la Caritas. Secondo l'accusa, i fondi destinati alle strutture di accoglienza dei profughi finivano in gran parte nelle tasche di un comitato di gestione che distraeva quei soldi per finalità private, fra le quali l'acquisto di alcuni appartamenti a Milano e di un bar a Pozzuoli. In tutto sono due gli arrestati, il presidente della Onlus di Pozzuoli, un'ala di riserva, Alfonso De Martino, e la compagna, e 8 gli indagati, fra i quali Don Vincenzo Federico, responsabile Caritas di Teggiano Policastro, nonché Cavaliere della Repubblica. In tutto avrebbero distratto 4 milioni di euro, secondo l'accusa. Loro si difendono, accuse surreali, dice l'avvocato del sacerdote, che deve rispondere per peculato. Sarebbero coinvolti anche due funzionari della Protezione Civile. Il centro di accoglienza profughi di Teggiano Policastro gestisce ogni giorno 600 migranti ed è indicato dal Ministero dell'Interno come futuro hub per l'accoglienza e immigrazione in Campania. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Restiamo per così dire in ambito ecclesiastico, parliamo però dello IOR che oggi ha presentato il suo rapporto annuale. Due giorni fa, tra l'altro, il Sole 24 Ore aveva rivelato che il Papa aveva bocciato il progetto di una società di investimento dello stesso IOR in Lussemburgo. Nel rapporto di oggi si parla della chiusura di 4.600 rapporti con i clienti, di cui 2.600 conti dormienti e 550 rapporti che non rientravano nelle categorie autorizzate, i cosiddetti conti laici. Abbiamo in linea con noi Carlo Marroni del Sole 24 Ore. Carlo, innanzitutto buongiorno. Buongiorno a te. E sembra che l'operazione pulizia sia definitivamente partita. È partita già, per la verità, già da un paio d'anni. I conti vengono chiusi a botte 2-3 mila. Naturalmente molti di questi conti, come dicevi giustamente, non sono conti, diciamo così, che hanno, sono in odore di illegalità, sono proprio semplicemente dormienti, non usati, magari da vedove di dipendenti o cose simili. Alcuni di questi invece, circa 500, non rientravano nelle categorie autorizzate e lì magari qualche sospetto di un uso poco consono, soprattutto per quanto riguarda l'Italia, c'è e c'è ancora, ma questi conti sono stati, così dichiara lo IOR, chiusi, circa 500, e quindi, perché lo IOR possono, non possono avere cittadini, diciamo, che non hanno rapporti con la Chiesa, non sono dipendenti del Vaticano, non sono cardinali. Questo è un po' il tema, perché lo IOR, come sappiamo, era usato un po' come una piazza offshore per l'Italia e non solo per l'Italia. Questo sembra ci sia, diciamo, sempre meno. Lo IOR ha fatto 69 milioni di utili, quindi anche un buon utile tutto sommato per una banca che dovrebbe occuparsi di opere di religione, quindi sono anche bravi, ecco. Tutto sommato bravi anche dal punto di vista gestionale. Questa operazione di pulizia, c'è una data alla quale si ritengono che possa ritenersi esaurita? Cioè questa operazione di pulizia quanto andrà avanti ancora? Beh, insomma, però come dicevi giustamente te, probabilmente è finita o verso la fine, perché ripeto, due anni circa questo lavoro è stato affidato anche da consulenti esterni, esperti in queste materie, in cui che hanno monitorato conto per conto. Ora i conti allo IOR attivi sono 15.000, quando cominciò questo esame erano intorno ai 26.000, quindi diciamo c'è stata un'enorme, diciamo, scrematura. La verità è che allo IOR poi è una banca, è uno sportello unico dove i dipendenti vaticani e le congregazioni religiose come i francescani e i gesuiti tengono lì i loro risparmi. Questo è, nasce per quello lo IOR. Poi, come sappiamo, nel tempo ha avuto usi non seri o fraudolenti o truffaldini. Questo da un po' di tempo non si verifica più, almeno in quanto sappiamo, e quindi l'operazione di pulizia verosimilmente è verso la fine. E grazie a Carlo Marroni del Sole 24 Ore. Veniamo ad una ricerca presentata oggi, secondo la quale l'80% degli italiani non esclude che in futuro possa mangiare alghe e quasi la metà insetti. Sono alcuni dei dati di un'indagine Doxa realizzata per la COP dal titolo Cibo di oggi, cibo di domani, realizzata su un campione di cittadini di 8 paesi diversi. Con uno sguardo al 2050 emerge la consapevolezza di un cambiamento radicale nelle abitudini alimentari. Il 46% del campione pensa che ci sarà una disponibilità di cibo più bassa, il 66% che la qualità sarà per pochi, grande apertura all'innovazione tecnologica sugli alimenti. Albino Russo, responsabile ufficio studi della Coppa, ai microfoni di Camilla Romana Bruno. Cadono molti tabù alimentari, per esempio la grande parte del campione analizzato, più dell'80% pressoché tutti i paesi, è disposto a mangiare le alghe, oltre il 70% ritiene non avere grossi problemi a mangiare OGM, ma la cosa che forse più impressiona che il 60% del campione totale e quasi il 50% in Italia è disposto a mangiare carne sintetica e il 44% degli italiani addirittura non esclude di mangiare gli insetti. E siamo al calcio col derby tra Roma e Lazio che si giocherà questa sera alle 18 e con qualche timore, qualche preoccupazione del cosiddetto biscotto, ossia il pareggio concordato. Carlo Genta, sì, buongiorno. Sì, buongiorno. Beh, questa è una possibilità, è inutile nasconderlo, perché è chiaro che la Lazio darebbe, consegnerebbe alla Roma al secondo posto, che con tutto quello che vale anche in termini economici, però metterebbe fuori gioco il Napoli, contro cui dovrà giocare l'ultima partita. Quindi questo è uno dei grandi temi. È chiaro che è una contraddizione in termini, no? Sì, ipotizzare con il biscotto, con il derby romano, che è la partita più importante dell'anno. Però è evidente come una situazione di parità qualificherebbe entrambe le romane, sebbene in posizioni diverse, in Champions League, nel qual caso la Lazio ai preliminari. La Lazio sta meglio della Roma, è più in forma della Roma, volendo guardare sarebbe anche favorita per questo derby, però c'è chi dice che un pareggio potrebbe convenire ad entrambe. Dunque questo, siamo in Italia ed è uno dei temi di discussione, piaccia o no. Tutto può succedere. Senti, in campo invece come si schierano? Ci sono cose particolari, segnalazioni particolari da fare? No, niente, c'è stata una vigilia curiosa da parte di Garcia, allenatore della Roma, che ha abbastanza ironizzato. Giochiamo domani? No, forse martedì. Forse i supplementari si giocano martedì. Ha fatto dell'ironia sulla collocazione di questo derby, che è sbagliata comunque tutto sommato, perché sarebbe stato meglio giocare in contemporanea con la Juventus, che ha battuto il Napoli sabato, quindi due giorni fa. Invece la Lazio ha ottenuto questo posticipo, lunedì alle 18 certamente non è la collocazione ideale per il derby, anche perché al di là delle possibilità di fruire da spettatori televisivi o allo stadio di questo derby, non è la collocazione ideale, perché Roma sarà città aperta e il derby è sempre una partita che ha tensioni particolari, che si porta dietro tensioni particolari, quindi certamente non è stata un'idea felice. Però è un derby estremamente importante dal punto di vista della classifica, e così ce lo prendiamo. La Lazio sta meglio della Roma, poi vedremo se sarà biscotto oppure no. Grazie a Carlo Genta, che ritroviamo ritroviamo ovviamente alle 14 in tutti i convocati, e speriamo in bene per l'ordine pubblico. Noi sentiamo che cosa succede sulle strade e poi andremo a Tunisi, dove parleremo con Osama Al-Saghir, un deputato tunisino che era già stato nostro ospite nei giorni immediatamente successivi all'attentato al Museo del Bardo. Parla perfettamente italiano perché ha vissuto ed è cresciuto in Italia. Parleremo con lui per farci raccontare di questo nuovo attacco che c'è stato in una caserma, per parlare della vicenda del cittadino marocchino arrestato in Italia, sospettato di essere uno tra gli autori, no, o quantomeno uno dei supporti logistici proprio della strage del Bardo. Traffico. Smau ti aspetta a Bologna, 4-5 giugno, Bologna Fiere. Smau.it vi presenta Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Il movimento di sinistra anti-austerity spagnolo di Podemos conquista Barcellona e governerà Madrid insieme ai socialisti. Mazzata l'Europa, dice Salvini. Per Renzi, i venti che arrivano da questo paese, dalla Grecia e dalla Polonia, chiedono il cambiamento. Proprio Atene resta al centro dell'attenzione. Esaurita la liquidità, aveva fatto sapere il governo ieri, non possiamo rimborsare il fondo monetario. Notizia smentita da un altro portavoce di governo questa mattina. Si teme un default o un'uscita dall'euro. In una caserma di Tunisi torna la paura del terrorismo, sparatoria e due vittime. La nuova inchiesta della magistratura sull'accoglienza dei migranti scuote una struttura della Caritas, i soldi per dei profughi, per case, biglietti per lo stadio, frutti di mare. Il derby tra Roma e Lazio si giocherà stasera alle 18 e vale la Champions. E veniamo dunque alla notizia che vi davamo poco fa nei titoli, quello che è avvenuto in Tunisia, dove questa mattina c'è stata una sparatoria all'interno di una caserma dell'esercito a Bouchoucha, che ospita tra l'altro la brigata antiterrorismo e la direzione generale dell'unità di pronto intervento. Il bilancio al momento sarebbe di 2 militari morti e di 8 feriti gravi. Di tutto questo e anche della vicenda del cittadino marocchino arrestato in Italia, accusato di essere uno degli autori della strage del Bardo, parliamo con Osama Al-Saghir, che torna ai nostri microfoni. Chi è Osama Al-Saghir? È un deputato tunisino del partito islamico Ennahda e parla perfettamente italiano perché è stato leader dei giovani musulmani italiani. Al-Saghir, bentornato. Buongiorno a voi, un saluto a tutti gli ascoltatori. Che cosa ci può raccontare su quello che è avvenuto stamattina? Dopo alcuni momenti di confusione, è chiaro, perché in realtà il posto dove è avvenuto questo incidente è circa 600 metri dal Bardo, per cui è facile venire in mente, insomma, quello che è successo al Bardo un po' di tempo fa. Quindi dopo alcuni momenti di confusione era chiaro, le notizie circolavano sul fatto che si tratti di un attentato terroristico, e è stato chiarito abbastanza velocemente che si trattava di un problema interno, un soldato che ha sparato ai suoi colleghi. Adesso poi esattamente le ragioni le scopriremo velocemente. È un incidente negativo, purtroppo, non abbiamo bisogno di questo tipo di... Ovviamente, è tornata un po' di paura, immagino, no? Eh sì, perché come le dicevo, in realtà è proprio il Bouchoucha, questo posto è proprio è la caserma che protegge tutta la zona, in particolare quella che è appena intervenuta per il Bardo, e questa è una cosa positiva perché a pochi centinaia di metri, circa 600 metri, e quindi l'attacco ha fatto subito venire in mente altre cose, nonostante il fatto che le nostre impressioni e quello che seguiamo dalle nostre forze politiche, dopo quell'attacco questi gruppi sono stati davvero indeboliti in maniera fortissima, perché in un certo senso quell'attacco lì li ha scoperti, perché è un primo attacco in città, non hanno mai fatto qualcosa del genere, non hanno queste capacità, ed è stato un attacco in cui hanno messo purtroppo molto del loro sforzo, ma la cosa positiva in tutto questo percorso negativo è il fatto che è stato un attacco che li ha scoperti, molti sono stati scoperti, per cui in questo momento in realtà vivono un grande momento di debolezza. E anche probabilmente suscitato una forte reazione. La voglio portare proprio a proposito dell'attentato al Museo del Bardo sulla vicenda di Abdelmajid Touil, questo cittadino marocchino, ne abbiamo parlato spesso nei giorni scorsi, arrestato in Italia su indicazione delle forze di sicurezza tunisine, con l'accusa di essere inizialmente addirittura di essere stato uno dei partecipanti dell'attacco al Museo del Bardo e poi successivamente di aver fornito un appoggio logistico. Stanno nascendo molti dubbi intorno alla ricostruzione che le forze di sicurezza tunisine hanno dato alle autorità italiane. Voi da là che cosa ne sapete? Mettiamo un punto chiaro, che deve essere chiaro un po' per tutti, che è chiaro che questi attacchi che stanno avvenendo in questa fase, è una nuova fase in cui il terrorismo cerca di essere davvero multinazionale, e l'attacco è un po' a tutta la regione. Tra l'altro molti analisti hanno detto chiaramente anche l'attacco di Parigi in realtà rientra nella stessa sfera di Bardo e di altri avvenimenti che stanno avvenendo. Allora è chiaro che le forze dell'ordine, un po' tutta regione del Mediterraneo, sponda nord e sponda sud, stanno cooperando per cercare di affrontare questo problema. Anche qui in Tunisia, per essere sinceri, subito dopo il Bardo purtroppo ci sono stati degli arresti di persone che magari erano soltanto sospettate, ma grazie a Dio velocemente rilasciate con le dovute scuse. È un momento davvero difficile, è stato un colpo davvero forte, ed è la presenza di molti leader anche in Tunisia nella manifestazione contro il terrorismo. È chiaro che la risposta deve essere internazionale, è chiaro che c'è il sentimento che questo attentato è stato fatto non solo in Tunisia, non preparato solo in Tunisia, ma nei paesi vicini, inclusi anche alcune connessioni che ci sono anche con alcuni paesi europei. E sappiamo che i foreign fighters che abbiamo qua in Tunisia, in realtà ce ne sono altri che partono anche da alcuni paesi europei. Tutti quanti noi dobbiamo affrontare questo problema. Il caso che c'è in Italia in questo momento va chiarito il prima possibile. Noi in Tunisia non vogliamo che nessuno venga arrestato in maniera sbagliata, se innocente, per cui veramente siamo tra le persone che vorremmo che insomma si esca il più veloce possibile da questa situazione di confusione. Avete intenzione di chiedere chiarimenti in Parlamento alle forze di sicurezza su questo arresto o no? Questo in particolare ancora non c'è nessuna richiesta di chiarimento, perché abbiamo appena passato, stiamo per passare i 100 giorni, però abbiamo un importante appuntamento con il Presidente del Governo, con i ministeri. È chiaro che la questione della sicurezza è in top agli interessi che abbiamo in questo momento, per cui questi altri avvenimenti saranno appunto in cima alla lista dei chiarimenti che chiederemo al governo tunisino quando verrà in Parlamento la prossima settimana. Ma quindi mi faccia capire una cosa, da un punto di vista politico è chiaro che lei non ha il polso esatto, no, di quello che succede all'interno della polizia, perché evidentemente è un parlamentare, però da un punto di vista politico la tensione che si è addensata su questo mondo all'indomani dell'attentato al Bardo può aver generato degli errori? Assolutamente sì, noi lo riconosciamo, ci sono stati alcuni arresti anche qua in Tunisia che erano degli errori, e noi diciamo che la Tunisia di oggi è diversa di quella di ieri. Abbiamo una Costituzione che rispetta i diritti umani, per cui bisogna intervenire immediatamente e cercare di rimettere le cose nel loro percorso giusto. Quindi per dirla genericamente, non possiamo escludere, seppure lei non lo sa evidentemente, non possiamo escludere che questo sia un errore. Assolutamente sì, io non posso escluderlo, non lo posso nemmeno confermare, perché non ho le informazioni dei servizi di sicurezza che abbiamo qui o che sono in cooperazione con quelli italiani. Quello che sicuramente voglio è che questa cooperazione tra le forze dell'ordine, le forze di sicurezza italiani e tunisini continuino, perché si riesca davvero ad affrontare questo problema, però preferibilmente senza errori. Grazie ad Osama Al-Saghir, che appunto è un parlamentare di Ennahda e che ci ha aiutato anche a capire un po' di cose su quello che è successo oggi in Tunisia e sulla vicenda di Twil. Qualcuno ci scrive via SMS: ci sono state elezioni in Polonia, com'è, non fanno audience? Ma certo che ne parliamo. In Polonia è stato eletto il nuovo presidente, si tratta di Andrzej Duda, è un euroscettico legato al partito fondato dai fratelli Lech e Jaroslaw Kaczynski. Ci torneremo, così come parleremo di Spagna, subito dopo la pausa e la borsa. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Il movimento di sinistra anti-austerity di Podemos in Spagna conquista Barcellona e governerà Madrid insieme ai socialisti, mentre vince, come si diceva prima, l'euroscettico Duda in Polonia e diventa presidente. Mazzata l'Europa, dice Salvini. Renzi, i venti da Spagna, Grecia e Polonia chiedono il cambiamento. Proprio Atene resta al centro dell'attenzione. Ieri il governo aveva detto: è esaurita la liquidità, non riusciamo a rimborsare il Fondo Monetario Internazionale. Poco fa un portavoce del governo greco ha detto: abbiamo intenzione di pagare i nostri debiti. In una caserma di Tunisi, ve l'abbiamo raccontato, torna la paura del terrorismo, sparatoria e due vittime, ma non si trattava di un attacco di jihadisti. La nuova inchiesta della magistratura sull'accoglienza dei migranti scuote una struttura Caritas, i soldi dei profughi per case, biglietti per lo stadio, frutti di mare. La borsa. Per lavoro o vacanze, scegli il noleggio Europcar. Europcar, moving your way. Vi presenta Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Ed è arrivato il momento di cercare di analizzare, cercare di capire qualcosa di più della tornata elettorale di questo fine settimana, che, come si diceva già prima, comprende non solamente quello che è successo in Spagna con queste elezioni comunali che hanno visto una vittoria sostanziale del movimento di sinistra anti-austerity di Podemos, erede dei cosiddetti indignados, che conquista la poltrona di primo cittadino di Barcellona. Governerà a Madrid insieme al Partito Socialista, ma si diceva non solo la Spagna, ma anche la vittoria di Duda, un uomo di destra, un euroscettico in Polonia, come che sarà il prossimo presidente. Saluto Leonardo Morlino, che è docente di scienza politica e prorettore alla Luis Guido Carli di Roma. Professor Morlino, buongiorno e bentornato. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Riusciamo a trovare un fattor comune a questi due voti di oggi? Il fattor comune, notevoli differenze ovviamente, ma chiaro, se vogliamo rintracciare un fattor comune, il fattor comune è dare istituzionalizzazione, dare senso, dare articolazione, espressione alla protesta, che magari in Polonia prende le parti della destra, prende, diciamo, le forme della destra, e che in Spagna prende le forme di Podemos e in realtà non solo di Podemos. Però questo è un aspetto che riguarda anche noi, è un aspetto che, come sappiamo benissimo, riguarda la Grecia, un po' meno il Portogallo, riguarda tutte le, in misura diversa, i paesi attaccati dalla crisi economica di tutti questi anni. Quindi è chiaro effetto, che Polonia un po' di meno, sì, che Polonia ne ha risentito di meno. Effetto, professor Morlino, che da noi abbiamo già visto ampiamente rappresentato nelle ultime elezioni politiche con il voto per il Movimento 5 Stelle, sostanzialmente. Senta, professore... Però forse c'è un punto interessante di differenza, cioè Podemos e la istituzionalizzazione, la canalizzazione in senso partitico di movimenti di cittadini, quindi di movimenti di quello che noi chiamiamo partecipazione non convenzionale. Invece nel caso italiano si è avuto immediatamente l'istituzionalizzazione, cioè non siamo passati attraverso questa fase intermedia. Il Movimento 5 Stelle ha portato immediatamente a un partito antipartito, a un partito di protesta. La protesta da noi c'è stata di meno. Senta, professore, che cosa può cambiare a livello europeo a questo punto? Perché qualcuno come il Presidente del Consiglio Renzi, come il leader leghista Salvini, dicono, mettendo insieme quello che è successo in Spagna, quello che è successo in Polonia e quello che è avvenuto in Grecia nel momento nel quale ci sono state le elezioni politiche, dicono, insomma, questo è un vento di cambiamento che riguarda tutta l'Europa. Può avere veramente un impatto tutto questo o la sua sensazione è che no? Europeo molto poco. A livello delle democrazie europee, soprattutto del sud Europa, c'è un impatto importante, cioè il fenomeno a cui abbiamo assistito nel passato era un fenomeno naturale di tendenza bipolare dei nostri sistemi partitici, della nostra dialettica partitica. Invece quello che sta avvenendo, e quindi anche in Italia, anche in Grecia, in maniera forte, lo stiamo vedendo adesso in Spagna, non dimentichiamo che in Spagna si va anche alle elezioni generali fra pochi mesi, è la tendenza ad una tripolarizzazione, in cui un terzo polo di protesta diventa più stabile, e questo naturalmente può introdurre notevoli elementi di incertezza e parecchie sorprese. A livello europeo sì. No, a livello europeo c'è una stabilizzazione, c'è un chiaro voto ormai anti-europeo, ma questo potrebbe essere visto anche positivamente, vuol dire che l'Europa comincia a interessare i cittadini. Ed è un fenomeno, professore, questo del cambiamento della polarizzazione, ossia sì, non più i due partiti che si confrontano, i due partiti principali che si confrontano, ma una terza forza che interviene, che abbiamo visto anche in Francia sostanzialmente. È così, esattamente, questo è il punto importante. cioè le democrazie, diciamo, fino ai primi anni del XXI secolo sono democrazie che mostrano una tendenza naturale, quasi indipendentemente dal sistema elettorale, alla bipolarizzazione. Invece adesso mostra una tendenza alla tripolarizzazione anche contro il sistema elettorale, che può essere bipolarizzante, come per esempio l'Italicum, come per esempio il sistema francese. E questo che cosa cambia secondo lei sullo scenario europeo, professore? Elementi di incertezza a livello locale, a livello nazionale, elementi di incertezza nelle politiche, aggiunge incertezza. Rispetto al quadro europeo, beh, ovviamente qui quando parliamo dei 28, quando parliamo del gruppo dell'euro, la situazione diventa diversa, perché lì poi altre decisioni, altri organi, altre istituzioni sono molto più rilevanti. La ringrazio, grazie al professor Leonardo Morlino per essere stato con noi e per averci aiutato a chiarire anche quello che sta succedendo più in generale in Europa, e non solamente in Spagna, non solamente in Polonia, ma appunto anche in Francia e in Grecia. Leonardo Morlino, che è docente di scienza politica e prorettore alla Luis Guido Carli di Roma. Professor Morlino, buona giornata. Ci ha già salutato evidentemente. A proposito di Europa, vi do conto di un paio di dichiarazioni arrivate in questi minuti da Federica Mogherini, alto rappresentante per la politica estera dell'Europa, che oggi è intervenuta alla stampa estera a Roma, dove ha ricevuto i premi ISPI 2015. Torna a parlare di immigrazione e dice che la priorità è salvare chi muore. E poi c'è una sorta di richiamo, dopo tutte le polemiche che avete visto nelle ore scorse, in merito alle quote: la sfida dell'Europa di fronte all'immigrazione, soprattutto interna, è ora che ciascuno Stato europeo sia pronto a farsi carico delle responsabilità che tutti insieme condividiamo. Una sorta di richiamo, chissà quanto efficace, naturalmente, per esempio, alla polemica che c'è stata con la Francia proprio sul tema delle quote. Traffico.